Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza. Nelle vostre aule ho assistito a disquisizioni sul transfert e la distanza professionale. Il transfert è inevitabile, signore. Ogni essere umano ha un impatto su di un altro. Perché vogliamo evitarlo in un rapporto paziente-medico? È sbagliato quello che insegnate nelle vostre lezioni. La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia. Buongiorno a voi, mi sembrava il modo migliore. Intanto come state? State bene? Buon inizio di giornata. Mi sembrava questo il modo migliore per introdurre il tema di cui vorrei occuparmi oggi e anche il modo migliore per parlare di un riconoscimento molto importante. Si chiama Laudato Medico. In linea con noi per raccontarci tutto abbiamo la dottoressa Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna. Dottoressa D'Antona, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Bene, il laudato medico è assolutamente in sintonia con quanto ci ha raccontato Patch Adams in questo breve estratto. Che cos'è? Sentito. Allora, ci racconti per bene, che a me questo riconoscimento piace un sacco e voglio che le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando lo conoscano. È molto conosciuto perché è un riconoscimento molto prestigioso, però ha delle caratteristiche particolari, viene proprio dai pazienti. Insomma, mi racconti lei, dottoressa D'Antona, chi meglio di lei? Grazie mille dell'opportunità. Faccio un piccolissimo flashback. Sì. Era il 2005 e il professor Umberto Veronesi pubblicava un libro che si chiamava Una carezza per guarire e diceva: esiste un fil rouge nella storia della figura del medico, il quale riporta una missione più che a una professione, missione verso professione, sì. Un compito in cui l'attenzione e l'amore per l'uomo e per l'umanità sono elementi imprescindibili. E questo era l'inizio. Poi nel 2010 i nostri ascoltatori ci chiederanno perché il professor Veronesi con questo riconoscimento, perché questo riconoscimento, il laudato medico è proprio ispirato. Laudato medico Umberto Veronesi. Diciamo che, allora ricomincio immediatamente dal fondo, dal premio, che è un riconoscimento a quelle figure che all'interno delle breast unit, quindi sto parlando di chirurghi, oncologi, radiologi, radioterapisti che all'interno delle breast unit o centri di sonologia dedicati alla cura del seno, lavorano in equipe e quindi a loro... E loro sono i referenti delle pazienti, quindi Europa Donna, che ho l'onore di presiedere, ogni anno chiede alle pazienti, sì, di segnalare quelli che per empatia, ascolto, disponibilità eccetera sono medici che si sono distinti per la loro umanità, per essere, diciamo, vicini ad un percorso poi sempre più felice, per fortuna, con una conclusione positiva, però il momento è sempre traumatico, quindi avere nel momento della diagnosi e poi in tutto il periodo della cura un medico disponibile, che sa ascoltare, che vede in te una persona e non un paziente o peggio ancora un organo da curare, che fa una buona comunicazione, che è empatico e sostiene il paziente, ovviamente questo è, diciamo, la missione del riconoscimento. Vi dico solo che ogni anno, questo è un premio che è alla sua quarta edizione, assegnato qualche giorno fa, alla sua quarta edizione ha avuto qualcosa come 6.000 segnalazioni in un mese. Vuol dire che ci sono state 6.000 donne che sono andate sul sito, che hanno dato la loro preferenza e hanno segnalato il medico a che ha dato loro maggiore diciamo fiducia rispetto a quella che stiamo chiamando una medicina dell'umanizzazione. E dottoressa D'Antona, io vorrei sottolineare, se lei è d'accordo, che il valore del riconoscimento quest'anno, se è possibile, è ancora più importante. Perché? Perché alimentare quello speciale rapporto proprio di fiducia tra medico e paziente in un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo, un periodo destabilizzante, si è sicuramente rivelato una sfida ancora più difficile, più complessa. Assolutamente, perché diciamo è la prima volta nella quale le donne, come sapete, le pazienti sono state intanto a volte persino non chiamate per fare le loro cure o rimandate, però diciamo l'accesso agli ospedali è stato estremamente limitato e quindi per venire a conoscenza di questo riconoscimento e per stare in contatto col proprio medico, certamente la vicinanza personale aiuta moltissimo. Quest'anno, nonostante le limitazioni dell'emergenza Covid, siamo riusciti comunque ad avere un 4% in più di segnalazioni rispetto all'anno scorso. Che cosa vuol dire? Che il bisogno e la richiesta verso il medico, il proprio medico che ti cura, di avere più attenzione, più vicinanza, specialmente in questo momento dove siamo stati obbligati a stare lontano, è essenziale e fa parte integrante della cura ed è un momento nel quale so che allora mi ricarico e so che posso farcela, perché il mio medico mi ha detto quella certa parola, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto dai, continuiamo così con questa cura che va bene. E noi in linea, dottoressa D'Antona, abbiamo un grande medico, il professor Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi, oltre che direttore dell'unità di chirurgia senologica integrata presso l'Istituto Europeo di Oncologia e professore all'Università di Milano. Professor Veronesi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie per essere con noi. Mi piace avere lei e la dottoressa D'Antona insieme per raccontare quanto sia importante l'umanizzazione della cura, l'attenzione a una relazione medico-paziente di qualità che deve essere sempre più parte integrante del percorso di diagnosi, cura e assistenza. Professor Veronesi. Assolutamente sì. Oggi nel momento della visita molto spesso il medico esperto impiega pochi secondi o pochi minuti a fare una diagnosi corretta, però tutto il resto del tempo invece deve essere speso ad ascoltare i pazienti. L'ascolto è la cosa più importante, perché ascoltando le pazienti, interrogandole, sentendo le loro esigenze, capendo che famiglia hanno, che cosa hanno dietro, cioè cosa c'è dietro a ogni donna, allora si può anche capire che cosa proporgli, perché la stessa malattia può essere trattata magari in maniera diversa da donna a donna, a seconda anche di quelle che sono le prospettive, i progetti di ogni singola donna. Quindi è importantissimo ascoltarle per capire che cosa proporgli, perché se tu fai la proposta giusta naturalmente avrai anche una maggiore aderenza alla cura proposta. Delle volte invece le pazienti si scontrano con dei medici magari poco empatici, che sono molto bruschi nel comunicare una diagnosi, propongono terapie che magari la paziente non in quel momento non riesce ad accettare. Cosa succede? La paziente scappa o si rivolge altrove, oppure addirittura torna a casa e non si fa curare perché ha paura dei trattamenti, e così poi torna dopo mesi con situazioni naturalmente molto più complesse. E quindi noi dobbiamo tenerle agganciate, dobbiamo fare in modo che le pazienti si fidino di noi e soprattutto siano in grado di capire perché proponiamo un certo trattamento, che vantaggi e svantaggi dà, e se questo trattamento è aderente ai loro progetti futuri. Ma professor Veronesi, secondo lei si nasce medico con questa capacità di entrare proprio nella storia della paziente, supportarla, insomma, oppure è una abilità? Si impara, non ci si nasce. Cosa che si impara col tempo, con l'esperienza, acquistando sicurezza, innanzitutto la sicurezza naturalmente nella diagnostica, nella diagnosi, perché è chiaro che tu puoi parlare in maniera sicura se sei sicura di quello che dici, se sei la diagnosi in mano, se sai bene di che cosa stai parlando. E poi una volta acquisita questa esperienza, poi si impara a capire le persone, a dedicargli tempo. Non è che occorrono delle ore, però magari anche pochi minuti, ma spesi bene, ascoltando, interessandosi, ricordandosi se la paziente è già nota, ricordandosi che cosa ha dietro, la famiglia, i figli, eccetera. Dottoressa D'Antona, mi sembra anche bella questa restituzione che le donne hanno fatto ai loro curanti. Certo. Perché è una, vero? È una cosa per dire sei nella strada giusta, quella che si avvicina a me. Infatti il riconoscimento non è assolutamente per mettere in risalto le capacità professionali, come diceva giustamente il professor Veronesi prima, è semplicemente per mettere invece in luce quello che ha speso quel minuto in più di attenzione per l'ascolto di cui appunto adesso stiamo parlando. Professor Veronesi, chiudo con una domanda, anzi un invito. Il Covid sta rubando la scena a tutto, ma le donne cosa devono sapere nonostante il Covid, professor Veronesi? Io direi che il messaggio da trasmettere è che comunque non bisogna fermare la prevenzione. Il Covid è un problema serio, un'emergenza che naturalmente supereremo come abbiamo superato tutto, ma questo non ci deve indurre nel fermarsi a fare prevenzione, perché altrimenti ci troveremo poi nel dopo Covid con una situazione magari ingestibile. Quindi tutte le donne che l'hanno sempre fatta devono continuare a fare la mammografia ogni 2 anni, ogni anno, a seconda delle situazioni, l'ecografia, stare attente al proprio steno, stare attente al proprio corpo in generale, andare negli ospedali che sono dei luoghi in cui ci sono dei percorsi sicuri per la prevenzione al minimo disturbo, al minimo sintomo, quindi comunque non fermarsi, non arrendersi e andare avanti a fare prevenzione. Grazie alla dottoressa Rosanna D'Antona, grazie per essere stata con noi Presidente di Europa Donna e grazie al professor Paolo Veronesi. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata. Andrea Roccabelli in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torno dopo il GR delle 12 per sembra una minaccia, ma non vuole essere una minaccia per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. E poi Facebook con le nostre video interviste. Buona giornata.